Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Corro come un matto. Le guardie giurate che pascolano all'interno dell'aeroporto al mio passaggio istintivamente portano la mano alla fondina. Ormai sono l'attrazione dell'area partenze internazionali. Quando passo la gente fa la ola, i bambini piangono spaventati, qualcuno mi cronometra. Ciao, sono Marco Vettori, ho 42 anni, vivo a Bergamo, ormai da 15, ma provengo dalla Toscana. Ho una moglie, 3 splendidi figli, faccio l'ingegnere e spesso mi sposto in aereo per incontrare clienti o convegni. Sono le 16:07 di un venerdì qualunque di fine ottobre, per l'esattezza è il 28, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e ci tengo a dirvelo subito, sin dall'inizio di questa puntata, oggi non è giornata. Avrei potuto far finta di niente, avrei potuto andare dritto, però è inutile, visto che ci raccontiamo tutto, giusto? Più o meno. E allora, oggi non è giornata, è stata una notte orribile, una mattinata altrettanto. Detto questo però, siamo qui e cerchiamo di andare dritti lo stesso. Però, ecco, una cosa importante è che la puntata di oggi non è una puntata adatta ai cardiopatici. Se avete problemi con lo stress, con la corsa e con l'ansia di perdere qualsiasi cosa, aerei, treni, oggi non è la puntata per voi. Se invece siete su un'automobile, siete su un taxi, ci sono taxi che ascoltano la D24 e sono tanti. Se siete su un taxi, ripeto, un'automobile o un treno e state andando in un aeroporto, qualsiasi esso sia, d'Italia possibilmente, ma anche all'estero, anche se mi sembra più difficile, 800240024, riapriamo i telefoni oggi per l'occasione, solo se state andando in un aeroporto o se magari ci siete in un aeroporto e state ascoltando la radio, con il telefonino, con la radiolina, da intimissimi, no? Ci sarà intimissimi, non ascoltano Radio 24, cioè no, ci avranno radio intimissimi, quelle robe lì un po' intimissimi. 800240024. Mi piacerebbe che si sentisse veramente il rumore dell'aeroporto sotto di voi e che mi diciate dove state andando, cosa ci fate, che volo prendete, quanto ci rimanete. In qualche modo oggi si parla della paura e della fobia da aeroporti, non da aerei, da aeroporti. 349-238-6666 per gli sms, invece per chiamare in diretta 800240024, c'è uno splendido centralino che vi risponderà come sempre e poi sarete in diretta. Allora, io ringrazio innanzitutto Lucia, perché ieri, chi era qui ieri, chi ha sentito la puntata di ieri, a un certo punto ho letto un messaggio di Lucia che diceva che aveva fatto un colloquio tempo fa e le aveva portato fortuna il fatto che me l'aveva raccontato, e ne aveva uno di lì a poco. Ebbene, mi ha scritto Lucia e dice: mi hanno assunta e mi hai portato fortuna anche questa volta. Ieri ho avuto il colloquio di cui ti ho scritto in bacheca, che hai letto alla radio. Oggi mi hanno chiamata da Torino e mi vogliono subito con loro. Non riesco ancora a crederci. A marzo ero a Londra, oggi a Torino e c'è sempre il tuo programma che lo racconta. Volevo solo dirti grazie, Lucia. Grazie a te, Lucia, nonostante tutto, nonostante questa giornata particolare. E Lucia mi ha mandato però anche un link che è molto interessante, riguardo proprio agli aeroporti, perché vabbè, sugli aeroporti c'è un po' di letteratura e c'è un po' di materiale sparso sul web che riguarda quelli che la storia di Tom Hanks, no? Come si chiamava quel film con Tom Hanks? The Terminal, no? Sì, di sto tizio, è una storia vera di un tizio che aveva un aeroporto. Però vabbè, non sono poi così interessanti. Invece Lucia mi ha mandato questo link che si chiama sleepinginairports.net. Ed è un sito tutto dedicato a come dove e perché dormire in aeroporto. In sostanza dicono: perché spendere 80 euro, 100, 200 euro per passare una notte fuori, quando gli aeroporti sono splendidi per dormire. E ti indica come trovare il posto, ti dice cosa portarti dietro per avere una notte confortevole. In sostanza non è più solo una roba per gente con lo zaino in spalla, ma è per tutti. E fa due classifiche, una classifica dei migliori aeroporti dove dormire e uno dei peggiori. Sono semplicemente 10 e quindi ve li dico. Il miglior aeroporto in cui dormire è Singapore, il secondo Seoul, il terzo è Hong Kong. Poi c'è Kuala Lumpur, Amsterdam, Monaco, Vancouver, Zurigo, Francoforte e Toronto. I peggiori aeroporti in cui dormire invece sono questi qua. Manila, Terminal 1 però, attenzione, quindi probabilmente quello vecchio. Paris Beauvais. Reykjavik. Quarto posto, Bergamo Orio al serio. E c'è anche un commento: ho dormito in diversi aeroporti, ma questo è stato un incubo. Il personale di sicurezza non ti permette di dormire. Ho dovuto farlo di due ore in diverse zone mentre loro giravano per svegliarmi e cacciarmi. Orribile. Solo una presa di corrente in tutto l'aeroporto. capito? Questi arrivano dalla Scandinavia e pensano che negli aeroporti c'è il prete di corrente per i computer. Ho parlato delle toilette, orrore, non ci crederete finché non le vedrete. Quarto Bergamo come peggior aeroporto del mondo, quinto Kiev, poi Francoforte, Londra, all'ottavo posto ancora l'Italia, Pisa. L'aeroporto chiude dall'ultimo volo, cioè all'una, fino alle 4 del mattino, quindi vi cacciano. La sicurezza è molto maleducata e i viaggiatori che d'estate dormono fuori dal terminal saranno svegliati dalla doccia fornita dal sistema di irrigazione automatico. Una volta all'interno il terminal è freddo, soprattutto se siete appena stati irrigati. Al nono posto Charles de Gaulle, però solo il terminal 3. Al decimo Los Angeles. 800240024. Se state andando in un aeroporto in questo momento, dovunque andiate, anche a prendere qualcuno, vale comunque. Se siete in un aeroporto o ci state andando, 800240024. Il motivo? Il motivo è questo qui. E 30 sveglia, cellulare, nessun messaggio, ovviamente. Doccia, barba, vestiti, colazione, denti, tutto ok. Perfetto. Valigia, borsa con PC. Saluto tutti, salgo in macchina e vado verso l'aeroporto. Sono le 7.30, l'aereo alle 8.50. Giusto in tempo. Non ho fatto i conti con la legge di Murphy, però. Se qualcosa può andare storto, lo farà. Non trovo parcheggio se non in capo al mondo. Arrivo di corsa al banco del check-in che sono già le 8. La signorina mi dà la carta d'imbarco, gate 13. Vado, anzi, corro. Viaggiavo per lavoro, dovevo andare in Spagna prima a trovare un cliente e poi subito dopo a un convegno. Quindi dovevo andare in aereo da Bergamo a Madrid e poi subito dopo ho fatto l'incontro con questo cliente e avrei dovuto prendere un treno che da Madrid mi doveva portare a Siviglia, un bellissimo treno super, super veloce. Arriva il controllo bagagli. C'è una coda che sembra uno sbarco militare. Sono in ritardo ma mi metto in fila, diligente ed educato. La fila non si muove. Inizio ad essere impaziente. Chiedo scusa, ho il volo tra meno di 30 minuti e tra 5 imbarcano, non posso fare tutta la fila. Passo avanti. Arrivo ai banchi di controllo dove prima del metal detector una gentile signorina mi chiede un documento e la carta d'imbarco. Ma scusi, lei vola con Ryanair? Sì. Mi spiace signore, ma non può salire con due bagagli a mano. Deve mettere la borsa piccola dentro l'altra. Eccolo qua. Per fortuna il trolley è quasi vuoto. Spingo a forza la valigetta del PC, chiudo tutto e mi ripresento dalla tizia. Aspetti, dobbiamo verificare se è in linea con gli standard di dimensione e di peso. No, mi spiace, supera di mezzo chilo il limite massimo, deve imbarcare la valigia. Per un attimo le vertigini, non credo a quello che mi sta dicendo. Ma scusi, scherziamo, tra 20 minuti ho il volo, guardi, si sbriga, ce la fa. Corro al check-in, passo avanti a tutti, mi ripresento da quell'altra tizia che non mi aveva avvisato del fatto che la compagnia aerea ha cambiato politica e ora accetta un solo bagaglio a mano. Eccoci qua, sono 20 euro, tenga. No, deve andare in biglietteria e ritornare qui con la ricevuta che le dà la carta d'imbarco. Questa volta, oltre alle vertigini, mi viene anche una nausea molto forte. Corro come un matto. Le guardie giurate che pascolano all'interno dell'aeroporto al mio passaggio istintivamente portano la mano alla fondina. Arrivo in biglietteria e scopro che il portafoglio con contanti e carte di credito è rimasto nel bagaglio a mano. Corro indietro a riprendere il portafoglio, ormai sono l'attrazione dell'area partenze internazionali. Quando passo fanno la ola, i bambini piangono spaventati, qualcuno mi cronometra. Mi dà un po' fastidio quello che passa avanti perché è arrivato in ritardo, che la valigia le si mette attraverso, il passeggino. E quando io mi sono trovato nella stessa situazione, vedevo le persone che mi guardavano un po' indispettite, disturbate dal mio comportamento, mi sono sentito ancora di più offeso perché non solo mi stavano facendo perdere potenzialmente l'aereo, ma mi stavano facendo fare una figuraccia di fronte a persone che non conoscevo. Il signor Vettori è atteso all'imbarco del volo FR5992 destinazione Madrid. Penso che se perdo il volo mi conviene nascondermi e sparire per un paio di giorni, non dire niente a nessuno. Alla fine entro in possesso del portafoglio, pago i 20 euro, mi danno la carta d'imbarco, salto il serpentone di coda chilometrica e arrivo dalla tizia che per mezzo chilo mi ha rispedito indietro. La saluto con un formale dito medio e finalmente arrivo al controllo bagagli. Il mio aspetto è impresentabile. Sono sudato come Nadal a Wimbledon, al quinto set. Ho le vene del collo che pulsano, un fiatone come un mantice da fonderia. Sembra stia per collassare da un momento all'altro. Ultima chiamata per il signor Vettori, volo FR5992. Arrivo di corsa al gate 13. Non c'è nessuno, per forza, sono già tutti a bordo. L'aereo aspettava me. Quando salgo sento gli accidenti di 119 passeggeri che sono già in ritardo, solo ed esclusivamente per causa mia. poche cose che mi mettono ansia. Rischiare di perdere un aereo è decisamente una di quelle. E ammetto che il racconto di Marco, solo a leggerlo la prima volta, mi ha dato proprio quella sensazione lì. Mi ha fatto sentire di essere in un aeroporto e di vedere le lancette dell'orologio che corrono inesorabili e tutte le assistenti possibili, di volo, di terra e pure di mare, che cercano di mettermi i bastoni tra le ruote. Io non lo so perché mi metta così tanto ansia all'aeroporto e il dovere prendere un aereo. Credo che abbia a che fare con il tempo che scorre. Io credo che in pochi casi come in quello si percepisca lo scorrere inesorabile del tempo. Inesorabile perché non ci puoi fare proprio nulla. Anche se corro, anche se mi affanno, la sensazione è che ci sia qualcosa drammaticamente più grande di me, che non potrò mai governare, che non saprò mai gestire. Anzi, lì, in aeroporto, mi rendo conto, e ogni volta, mi rendo conto che vivo nell'illusione di essere padrone del mio tempo. E invece non è così, per niente, mai. Ho perso una sola volta un aereo. Ero con la ragazza con cui stavo all'epoca, e quindi mi piace un po' pensare che sia stata anche colpa sua. Ecco, quell'episodio mi ha talmente segnato che per esorcizzarlo quel giorno, mentre aspettavamo di salire sull'aereo, ho buttato giù la cronaca pressoché diretta di quei minuti interminabili. Ore 6 del mattino, suona la sveglia, io mi giro dall'altra parte, Giulia la spegne, ci riaddormentiamo. Ore 6 e 23, apro gli occhi, la stanza è piena di luce, merda, ci siamo riaddormentati, Giulia! Ore 6 e 45, esco dalla doccia, cerco un asciugamano, scivolo sulle piastrelle e per poco non lascio i denti sul lavandino. Ore 6 e 54, dai Giulia, dai, dai che perdiamo l'aereo, dai! Ore 7 in punto, ho un'ansia che nonostante non abbia mai avuto un attacco di panico, sento che mi sta per venire. Ore 7 e 13 minuti, Matteo non mettermi fretta che altrimenti è peggio, Ore 7 e 21 minuti, non si chiude, cosa ci hai messo dentro a sta valigia? Un armadio! Ore 7 e 30, siamo pronti, ci guardiamo in faccia, come andiamo in aeroporto? In Vespa, ma sei scemo! Ore 7 e 32, Radio Taxi, buongiorno, mi manda una macchina in via 40 per piacere? Brescia 11, 4 minuti, ore 7 e 37, l'aeroporto di Malpensa, per piacere il più in fretta possibile. Ore 7 e 45, Giulia inizia a toccarsi le tasche nel panico. Giulia, cosa c'è? E il passaporto? Il passaporto cosa? Forse non l'ho preso. Giulia, controlla bene. Ah, no, eccolo qua, trovato. Ore 7.50. Matteo, abbiamo chiuso la casa, no? Ma l'hai chiusa tu? No, tu. No, io non l'ho chiusa. Ma la chiudi sempre tu? Merda. Ore 7.51. Il taxi fa inversione di marcia. In un attimo siamo sotto casa. Ore 7.54. La porta era chiusa con quattro mandate. Ripartiamo. Ore 8.26 minuti. Grazie mille, tenga pure il resto. Ore 8.28 minuti. Corriamo verso il check-in. Troviamo quello della nostra compagnia. Il banco è drammaticamente vuoto. Ore 8.29 minuti. La signorina è sorridente ma inflessibile. Mi spiace, l'imbarco è stato chiuso 3 minuti fa. Ore 8 e 30 minuti. Mi sento un pirla. Come mai mi sono sentito? Un pirla e soprattutto mi sento terribilmente mortale. È vero che questa roba degli aeroporti mi ha sempre un pochettino messo ansia. Ripeto, come dicevo nel racconto, non tanto prendere l'aereo in sé, che mi faceva più paura da bambino, adesso quasi più. È proprio l'aeroporto, tutte le uscite, imbroccare gli orari. E devo dire che quando ho letto il racconto di Marco, questa roba mi ha aumentata al punto che già ho paura solo di immaginare la prossima volta quando ero in un aeroporto. Pronto Marco? Eccomi qua, ciao. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Dove sei esattamente Marco in questo momento? In questo momento sono a Bergamo. Ma dove ti trovi? A parte che stai girando un tè. Sono al lavoro. Sei al lavoro. Senti, mi ricordi che lavoro fai? Faccio l'ingegnere. Lavoro in una ditta che si occupa di energie rinnovabili. Ah, quindi roba che andrà fortissimo da qui a poco. Si spera di sì. Ci stiamo tutti incrociando le dita. Quindi tu ascolti Mr. Kilowatt a nastro, immagino. Bravissimo. Sì, conosci Maurizio Melis? Lo conosco non di persona, però... Beh, certo, ovviamente, per quello che fa. L'unico uomo che gira per la redazione con un computer portatile sempre aperto in mano. L'iconografia sua è questa qua. Senti, Marco, viaggi per lavoro? Sì, abbastanza. Recentemente non molto, però in passato ho viaggiato molto. L'evento di cui ti ho scritto si risale a... Al marzo del 2009. Senti, ricordami per quale motivo eri in quell'aeroporto, perché questa era vacanza invece, giusto? No, no, questo era lavoro, questo era lavoro, per quello ero molto, diciamo, tirato, perché avevo una serie di appuntamenti in cascata l'uno con l'altro. Dovevo partire da Bergamo per andare a Madrid, dove avrei dovuto incontrare un potenziale cliente che quindi ci aspettava abbracciati, che noi eravamo là molto, molto desiderosi di stabilire affari con lui. Sì. E poi da Madrid avrei dovuto prendere, dopo l'incontro con lui, un treno per andare a Siviglia, dove iniziava un convegno importante sulle tecnologie innovative dell'energia solare. Però era un'agenda molto, molto stretta, per cui se fossi arrivato in ritardo al primo appuntamento, poi avrei perso anche il treno e quindi mi sarebbe saltata tutta la programmazione. E vabbè, è da lì tutto il racconto che ci hai mandato. Però la cosa che mi stupisce, quindi, perché dal tuo racconto tu sembri veramente uno che non viaggia mai, sai, quelli che tipo o hanno paura dell'aereo o lo prendono solo se c'è bisogno, quindi arrivi in un aeroporto e rimangono spiazzati. Mi sembra di capire che non è così. No, no, non è assolutamente così. Lì sono rimasto spiazzato perché era da poco entrata in vigore la nuova normativa, evidentemente, di quella compagnia aerea, che vietava di portare due bagagli a mano contemporaneamente. E quindi sono rimasto completamente spiazzato, e da lì si è innescato tutto questo cinema, perché di solito invece è tutto perfettamente oliato come un meccanismo, certo. E non ho mai avuto di queste difficoltà. Senti, tutte le parti in cui, diciamo, sostanzialmente mandi garbatamente a quel paese le hostess sono solo immaginate, oppure c'è stato un vero e proprio scambio di opinioni? No, non ci sono stati scambi così veementi. Ovviamente la faccia però traspariva il mio stato d'animo in maniera inequivocabile. Senti, qual è stato l'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultimo viaggio in aereo è stato il mese scorso. Sono andato di nuovo in Spagna per altri motivi. Ma perché in Spagna perché per le energie rinnovabili c'è parecchio lavoro, oppure perché avete contatti lì? No, per entrambe le cose, nel senso la Spagna è molto più avanti di noi su queste tecnologie. Ma scusami, parliamo di eolico, solare? Solare a concentrazione, sono quei grossi impianti con gli specchi tipo quelli di Archimede, che sì, concentrano il sole su un tubo, riscaldano un liquido ad alta temperatura e poi producono energia, quindi non stiamo parlando di impianti fotovoltaici. No, capito. Quelli che praticamente il liquido raggiunge una certa temperatura e cosa fa? Rilascia energia. Poi il liquido produce vapore che va in una turbina e fa energia elettrica. Ma e voi producete proprio quegli specchi, cioè la struttura? Bravissimo, noi facciamo quegli specchi lì. Ah, ho capito. E scusami, quanto è grande l'azienda? L'azienda occupa una cinquantina di persone, più c'è tutto un indotto di altre aziende che lavorano per noi, e in realtà non siamo gli unici a fare questo tipo di prodotto. La grossa fetta del mercato è tenuta dalle grandi multinazionali. Però le cose vanno bene? No, non vanno per niente bene, infatti per quello stiamo cercando di tenere stretti con i denti queste opportunità. Senti Marco, il prossimo viaggio? Nel prossimo viaggio dovrei andare in Romania. Romania. Senti Marco, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto, che era molto divertente, e per la chiacchiera al telefono. In bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Ciao, grazie Marco, buona giornata. Ciao Matteo, ciao. Voi siete qui. Se io fossi una donna in questo momento, andrei a vedere la foto di Marco sul profilo, sul sito di Radio 24, radio24.it, la pagina di Voi siete qui, perché è vero che ha una moglie e tre figli, diceva, però è proprio un bell'uomo Marco, ricorda un po' Luca Argentero, un pochettino Bolini non sa chi è Luca Argentero. Quello del Grande Fratello che fa i film. Vabbè, ha i capelli castani scuri, ha gli occhi scuri, ha un bellissimo sorriso, la barba leggermente incolta e indossa una maschera e una muta da sub. 349-238-6666. Intanto c'è gente al telefono, giusto, perché stanno andando in aeroporto, però li teniamo lì un secondo. Ciao Matteo, io volo 4 volte a settimana da 11 anni, basta corse, basta stress, ormai mi presento puntualmente in ritardo, impermeabile agli improperi, se io sommassi i ritardi causati dalle compagnie recupererei un paio d'anni di vita. Il trucco? Il web check-in e la freccia al bub plus. Cos'è? Al bub, Vabbè, saranno delle, dei club, no? Delle compagnie aeree. Firmato Mao. E poi ringrazio quello che invece non si firma. Mi dice: guarda, che se avevi una giornata storta, stavi a casa, non era un problema, eravamo tutti più felici. Ma cosa c'è che non va oggi, eh? Mi sa che non sono l'unico ad aver avuto una giornata storta oggi. 349-238-6666. Fortunatamente c'è la psicologia che arriva sempre a salvarci. Perché uno dice: perché fare una puntata sugli aeroporti? Perché gli aeroporti non sono solo gli aeroporti. Raccontano qualcosa di noi quando ci andiamo. E fortunatamente oggi è arrivata una mail a voi siete qui, @radio24.it, di un'ascoltatrice, che è Giulia, che evidentemente è una psicologa, e dice che non solo lei ha questo panico d'aeroporto, ma ci spiega il perché. Caro Matteo, credevo di essere l'unica ad avere paura degli aeroporti, ma fortunatamente vedo che non è così. Non ne parlo mai con nessuno perché non è una cosa comune, un po' mi imbarazza. È comune avere paura di volare, avere paura dell'aereo, non degli aeroporti. Fortunatamente io non viaggio per lavoro, ma come a molte altre persone mi piace viaggiare, anche solo per andare in vacanza. E quindi due o tre volte l'anno mi capita di passarci da un aeroporto. Vivo in provincia di Trapani e il mio aeroporto, quello di Trapani Birgi, lo conosco a memoria e non mi fa quasi paura. È talmente piccolo e accogliente che quando ci arrivo riesco a distribuire in maniera serena e precisa il mio tempo in quegli spazi. Perché alla fine, vedi, ho scoperto da cosa arriva questa fobia. Si tratta di trovare un equilibrio tra il tempo che hai a disposizione prima di partire, di solito poco, e la gestione di quello spazio, pieno di cose e di gente. Infatti il mio problema non è quell'aeroporto lì, quello di Trapani. Sono gli aeroporti in cui atterro o faccio scalo. Già quello di Palermo mi risulta ostico, ma l'esperienza più traumatica è stata all'aeroporto di Parigi. Le dimensioni non aiutano, certo, ma quando sono scesa dall'autobus per andare a prendere il volo che mi doveva portare a New York, ho capito che non sarebbe stata una passeggiata. Mi sono persa più e più volte. Ho percorso Tapirulana al contrario e chiesto informazioni a chiunque. Il tempo passava e io mi sentivo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non capivo nulla di quello che diceva l'altoparlante e tutte le facce delle persone attorno mi sembravano sicure, sfacciate rispetto alla mia che era probabilmente impaurita, smarrita. Inutile dire che mi sono persa, sia io sia al volo. Penso però che la paura degli aeroporti abbia a che fare proprio con la perdita e con il tempo che passa, con il fatto che quando sei lì non sai chi sei, perdi un pezzo della tua identità in mezzo a quella di chi ti circonda. Ritorni un bambino che ha bisogno di essere guidato da scritte e da voci. Anche se sei in anticipo, percepisci che il tempo non ti è amico. Lo puoi ingannare magari con un panino o un libro, ma lui non si cura di te. Va avanti, dritto, sei tu che devi stargli dietro. Oppure un passo avanti, devi anticiparlo e assecondarlo. Perché se te lo metti contro, non farai altro che metterti contro te stesso. Ancora non l'ho superata questa paura, ma almeno l'ho capita. Scusa, sarà che faccio la strizza cervelli, ma non sono riuscita a non far diventare questa mail un mini trattato di psicologia. A presto, Giulia. Che al contrario, ringrazio Giulia perché adoro i mini trattati di psicologia. Come li adora Lucio, credo che scrive: all'aeroporto si va 3 ore prima con 4 punti esclamativi. Lucio, giornata storta, eh? Butto una brutta notata anche te, mi sa, eh? Su, su, state su, mi raccomando. C'è qualcuno che non so se ci sta andando 3 ore prima all'aeroporto, però in aeroporto ci sta andando. È Filippo, da Reggio Emilia. Pronto, Filippo? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Ma tu mi senti, vero? Ti sento molto quindi bene. Quindi non devo urlare, giusto? No, posso abbassare il tono della voce. Ero partito bello alto. Senti, dimmi a quale aeroporto stai andando e perché. Sto andando all'aeroporto di Forlì per andare a Katowice, in Polonia. Scusami, a Katowice. Dove si trova in Polonia? Diciamo a 100 km da Cracovia, più o meno. E cosa, cosa ci vai a fare? Vado con la mia dolce metà a trovare i suoi genitori. Quindi lei è polacca? Esatto. Vive in Italia? Vive in Italia da tanti anni. È lì con te in questo momento? No, la vado a raggiungere a casa, la vado a prendere. Ah, ok, perché lei era da qualche giorno prima. Sì, lei è a casa con me, vive con me, la sto passando a prendere per andare in aeroporto insieme a Forlì. Ok, senti, com'è la Polonia vista da uno che è sposato con una polacca? Non sono sposato, convivo, però spero di sposarmi presto. E bocca la Polonia è meravigliosa, è un paese molto molto caldo, le persone sono fantastiche. Senti, al contrario del freddo che c'è. Dimmi come si chiama però il paese proprio di tua moglie, non è Katowice? No, non è Katowice, ma è Częstochowa. Ma dove c'è la Madonna di Częstochowa? Bravissimo. No? Cosa ha fatto lì la Madonna? Cioè, avrà fatto qualcosa anche lì? Ma diciamo che c'è un quadro bellissimo, che purtroppo non è più nel Duomo di Czestochowa. C'è tutta una storia dietro legata a questo quadro che è stato rubato nei tempi addietro. Filippo, quanto dura il volo? 1 ora e 3 quarti. A che ora parti? Parto stasera alle 10. Perfetto, in bocca al lupo, ciao Filippo, saluta tua moglie, grazie. Buon viaggio. Grazie, ciao, ciao, grazie. Andiamo da Anna, da provincia di Lucca invece, pronto Anna? Sì, ci sono. Ci sei? Fantastico, tu sì. Mi senti? Benissimo. Io ti sento, quindi non urliamo Anna. Assolutamente. Senti, tu ti trovi in macchina in questo momento o sei già arrivata? Sì, no, sono ancora in macchina, mi sono fermata per dirvi che appunto sto andando all'aeroporto a Pisa. Aia, occhio perché occhio agli spruzzini dell'aeroporto di Pisa. Che... sì. Ce li segnalavano come terribili. Come terribili, sì. E niente, sto andando a prendere mio figlio che torna a casa per questi giorni di vacanza. Da dove? Da Lussemburgo. Che ci fa a Lussemburgo, tuo fratello? Lavora tuo figlio? A Lussemburgo. Tipo banche d'affari? No, non proprio. Non proprio. Non lo però... puoi dire. Anna, non lo puoi dire. È un agente segreto. No, non si può dire. No. No. È uno dei giovani che da un anno è partito dall'Italia. Cioè, uno di quelli che se n'è andato. È uno di quelli che se n'è andato. E sì, ma come è andata? L'ha trovato qui il lavoro o è andato là con la valigina? No. Mio figlio lavorava qua, poi ha fatto un master che però non è stato, cioè, secondo lui non è stato valorizzato per quella e ha dato il suo curriculum. Ha fatto le cosine per bene. Quanti anni ha? Mio figlio ha 33 anni. 33. E quanto guadagna in Lussemburgo? Non lo so, perché mi fa queste domande? Beh, perché così capiamo. Guadagna sicuramente più di quanto guadagnasse in Italia. Mio figlio è ingegnere con un master in business administration. Viva, viva. Anna, grazie mille, saluta tuo figlio. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Ha risposto Lucio, mi dicono. Attenzione, Lucio ha risposto e mi dice... dov'è? Non lo vedo. Ah, è un autista, io ce li porto con l'autobus tutti i giorni da 21 anni in aeroporto. Grazie Lucio, grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma anche oggi. Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Marco e parlava di aeroporti. Quella di lunedì è la storia di Fausta e racconta dei 5 giorni più belli della nostra vita. Aveva preparato la sua camera per me. Sul letto troneggiava un pacco con sopra un biglietto. Welcome to my home. Your home for 5 days. Lo aprì emozionata, come una bimba. Conteneva un bellissimo accappatoio di spugna bianca. Furono i 5 giorni più belli della mia vita.